E quando il suo pensier col mio pensier si incontrerà, un astro accanto a te s'accenderà. E quando la mia bocca la sua bocca sfiorerà, il mondo intero canterà. Oh luna, luna tu, guarda gli amanti e illumina l'immenso, l'immenso e illumina d'immenso.